Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Quarto giorno, terza, dove arriva Guglielmo col testo di Venanzio che continua a rimanere indecifrabile anche dopo essere stato decifrato. In verità, compiuto quasi il periplo dell'abbazia, mi ritrovai dove ci eravamo lasciati 2 ore innanzi. Lì stava Guglielmo, e quanto mi disse mi distrasse dai miei pensieri e mi volse di nuovo la mente ai tenebrosi misteri dell'abbazia. Guglielmo pareva molto contento. Aveva in mano il foglio di Venanzio, che finalmente aveva decifrato. Andammo nella sua cella, lontano da orecchie indiscrete, ed egli mi tradusse quello che aveva letto. Dopo la frase in alfabeto zodiacale, secretum finis africe, manus supra idolum, age primum et septimum dequatur, ecco cosa diceva il testo greco. Il veleno tremendo che dà la purificazione, l'arma migliore per distruggere il nemico, usa le persone umili, vili e brutte, trae piacere dal loro difetto. Non debbono morire, non nelle case dei nobili e dei potenti, ma dai villaggi dei contadini, dopo abbondante pasto e libagioni. Corpi tozzi, visi deformi. Stuprano vergini e giacciono con meretrici, non malvagi, senza timore. Una verità diversa, una diversa immagine della verità. I venerandi fichi, la pietra svergognata rotola per la pianura, sotto gli occhi. Bisogna ingannare e sorprendere ingannando, dire le cose all'opposto di quanto si credeva, dire una cosa e intenderne un'altra. Ad essi le cicale canteranno da terra. Niente altro. A mio giudizio troppo poco, quasi nulla. Sembravano le farneticazioni di un demente e lo dissi a Guglielmo. Potrebbe darsi e appare senz'altro più demente di quanto non fosse, a causa della mia traduzione. Conosco il greco abbastanza approssimativamente e, tuttavia, posto che Venanzio fosse pazzo, o fosse pazzo l'autore del libro, questo non ci direbbe perché tante persone, e non tutte pazze, si sono date da fare prima per nascondere il libro e poi per recuperarlo. Ma le cose che sono scritte qui provengono dal libro misterioso? Si tratta senz'altro di cose scritte da Venanzio. Lo vedi anche tu. Non si tratta di una pergamena antica, e devono essere appunti presi leggendo il libro, altrimenti Venanzio non avrebbe scritto in greco. Egli ha certamente ricopiato, abbreviandole, delle frasi che ha trovato sul volume, sottratto al finis africe. Lo ha portato nello scriptorium e ha iniziato a leggerlo annotando ciò che gli pareva degno di nota. Poi è accaduto qualcosa. O si è sentito male, o ha udito qualcuno salire. Allora ha riposto il libro, con gli appunti, sotto al suo tavolo, probabilmente ripromettendosi di riprenderlo la sera dopo. In ogni caso è solo partendo da questo foglio che potremo ricostruire la natura del libro misterioso. Ed è solo dalla natura di quel libro che sarà possibile inferire la natura dell'omicida. Perché in ogni delitto commesso per possedere un oggetto, la natura dell'oggetto dovrebbe fornirci una idea, sia pur pallida, della natura dell'assassino. Se si uccide per un pugno d'oro, l'assassino sarà persona avida. Se per un libro, l'assassino sarà ansioso di custodire per sé i segreti di quel libro. Occorre dunque sapere cosa dice il libro che noi non abbiamo. E voi sarete in grado da queste poche righe di capire di quale libro si tratta? Caro Azzo, queste sembrano le parole di un testo sacro il cui significato va al di là della lettera. Leggendole stamattina, dopo che avevamo parlato con il cellario, mi ha colpito il fatto che anche qui si fa cenno agli umili e ai contadini come portatori di una verità diversa da quella dei saggi. Il cellario ha lasciato capire che qualche strana complicità lo legava a Malachia. che Malachia avesse nascosto qualche pericoloso testo ereticale che Remigio gli aveva consegnato? Allora Venanzio avrebbe letto e annotato qualche misteriosa istruzione concernente una comunità di uomini rozzi e vili in rivolta contro tutto e tutti. Ma due fatti stanno contro questa mia ipotesi. L'uno è che Venanzio non pareva interessato a tali questioni. Era un traduttore di testi greci, non un predicatore di eresie. L'altro è che frasi come quelle dei fichi, della pietra o delle cicale non verrebbero spiegate da questa prima ipotesi. Forse sono enigmi con un altro significato, suggerì. Oppure avete un'altra ipotesi? Ce l'ho, ma è ancora confusa. Mi pare, leggendo questa pagina, di avere già letto alcune di queste parole e mi tornano alla mente frasi quasi simili che ho visto altrove. Mi pare, anzi, che questo foglio parli di qualcosa di cui si è già parlato nei giorni scorsi, ma non ricordo cosa. Devo pensarci su. Forse dovrò leggere altri libri. Come mai? Per sapere cosa dice un libro ne dovete leggere altri? Talora si può fare così. Spesso i libri parlano di altri libri. Spesso un libro innocuo è come un seme che fiorirà in un libro pericoloso, o all'inverso, è il frutto dolce di una radice amara. Non potresti, leggendo Alberto, sapere cosa avrebbe potuto dire Tommaso? O, leggendo Tommaso, sapere cosa avesse detto Averroè? Sì, è vero, disse ammirato. Sino ad allora avevo pensato che ogni libro parlasse delle cose umane o divine che stanno fuori dai libri. Ora mi avvedevo che non di rado i libri parlano di libri, ovvero è come se si parlassero fra loro. Alla luce di questa riflessione, la biblioteca mi parve ancora più inquietante. Ma allora, dissi, a che serve nascondere i libri se dai libri palesi si può risalire a quelli occulti? Sull'arco dei secoli non serve a nulla. Sull'arco degli anni e dei giorni serve a qualcosa. Vedi, infatti, come noi ci troviamo smarriti. E quindi una biblioteca non è uno strumento per distribuire la verità, ma per ritardarne l'apparizione? Chiesi stupito. Non sempre, e non necessariamente. In questo caso, lo è. Quarto giorno, sesta, dove Azzo va a cercare Tartufi e trova i minoriti in arrivo. Questi colloquiano a lungo con Guglielmo e Ubertino e si apprendono cose molto tristi su Giovanni XXII. Dopo queste considerazioni il mio maestro decise di non fare più nulla. Ho già detto che aveva talvolta di questi momenti di totale mancanza di attività, come se il ciclo incessante degli astri si fosse arrestato ed egli con esso e con essi. Così fece quel mattino, si distese sul pagliericcio con gli occhi aperti nel vuoto e le mani incrociate sul petto, muovendo appena le labbra come se recitasse una preghiera, ma in modo irregolare e senza devozione. Pensai che pensasse e risolsi di rispettare la sua meditazione. Tornai nella corte e vidi che il sole si era affievolito. Vidi Severino che radunava i porcai e alcuni dei loro animali con allegria. Mi disse che andavano lungo le falde del monte e a valle a cercare i tartufi. Io non conoscevo ancora quel frutto prelibato del sottobosco che cresceva in quella penisola e sembrava tipico delle terre benedettine, vuoi a Norcia, nero, vuoi in quelle terre, più bianco e profumato. Severino mi spiegò cosa fosse e quanto fosse gustoso, preparato nei modi più vari, e mi disse che era difficilissimo da trovare perché si nascondeva sotto la terra, più segreto di un fungo, e gli unici animali capaci di scovarlo seguendo il loro olfatto erano i porci, salvo che, come lo trovavano, volevano divorarselo e bisognava subito allontanarli e intervenire a dissotterrarlo. Incuriosito dei preparativi di Severino, risolsi di seguirlo, anche perché compresi che egli si dava a quella cerca per dimenticare le tristi vicende che opprimevano tutti, e io pensai che aiutando lui a dimenticare i suoi pensieri, avrei forse, se non scordato, almeno tenuto a freno i miei. Man mano che si scendevano i tornanti del monte, l'aria si schiariva, non che tornasse il sole, che la parte superiore del cielo era gravata dalle nuvole, ma le cose si distinguevano nettamente perché la nebbia rimaneva sopra le nostre teste. Anzi, scesi che fummo di molto, mi voltai a guardare la cima del monte e non vidi più nulla. Da metà della salita in avanti, la sommità del colle, il pianoro, l'edificio, tutto scomparivano tra le nubi. Il mattino del nostro arrivo, quando già eravamo tra i monti, a certi tornanti era ancora possibile scorgere a non più di 10 miglia e forse meno il mare. Il nostro viaggio era stato ricco di sorprese. Quel mattino invece tutto era grigio e quasi bianco latte e non v'erano orizzonti anche quando le gole si aprivano verso le coste lontane. Ma mi attardo in ricordi di poco interesse ai fini della vicenda che ancora mi affanna. Così non dirò delle alterne vicende della nostra ricerca dei tartufi e dirò piuttosto della legazione dei frati minori che avvistai per primo correndo subito verso il monastero per avvertire Guglielmo. Il mio maestro lasciò che i nuovi arrivati entrassero e fossero salutati dall'abate secondo il rito. Poi andò incontro al gruppo e fu una sequenza di abbracci e di saluti fraterni. Era già trascorsa l'ora della mensa, ma una tavola era stata imbandita per gli ospiti e l'abate ebbe la finezza di lasciarli tra loro e soli con Guglielmo, sottratti ai doveri della regola, liberi di nutrirsi e di scambiare al tempo stesso le loro impressioni, dato che infine si trattava, Dio mi perdoni la sgradita similitudine, come di un consiglio di guerra da tenersi al più presto prima che arrivasse l'oste nemica, e cioè la legazione avignonese. Inutile dire che i nuovi venuti si incontrarono subito anche con Ubertino, che tutti salutarono con la sorpresa, la gioia e la venerazione che erano dovute e alla sua lunga assenza e ai timori che avevano circondato la sua scomparsa e alle qualità di quel coraggioso guerriero che da decenni aveva già combattuto la loro stessa battaglia. Dei frati che componevano il gruppo dirò poi parlando della riunione del giorno dopo, anche perché io parlai pochissimo con loro, preso com'ero dal consiglio a tre che subito si stabilì tra Guglielmo, Ubertino e Michele da Cesena. Michele era ardentissimo nella sua passione francescana, aveva talora i gesti, gli accenti di Ubertino nei suoi momenti di rapimento mistico, ma molto gioviale nella sua terrestre natura di uomo delle Romagne, capace di apprezzare la buona tavola e felice di ritrovarsi con gli amici. Sottile ed evasivo, di colpo diventando accorto e abile come una volpe, sornione come una talpa, quando si sfioravano problemi di rapporti tra potenti. Capace di grandi risate, di fervide tensioni, di eloquenti silenzi, abile nel distogliere lo sguardo dall'interlocutore quando la domanda di quello richiedeva di mascherare con la distrazione il rifiuto della risposta. Di lui ho già detto qualcosa ed erano cose che avevo sentito dire, ma ora capivo meglio molti dei suoi atteggiamenti contraddittori e dei repentini mutamenti di disegno politico con cui, negli ultimi anni, aveva stupito i suoi stessi amici e seguaci. Ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, era in principio l'erede di San Francesco, di fatto l'erede dei suoi interpreti. Doveva competere con la santità e la saggezza di un predecessore come Bonaventura da Bagnoregio, doveva garantire il rispetto della regola, ma al tempo stesso le fortune dell'ordine, così potente e vasto. Doveva prestare orecchio alle corti e alle magistrature cittadine, da cui l'ordine traeva, sia pure sotto forma di elemosine, doni e lasciti, motivo di prosperità e ricchezza, e doveva nel contempo badare che il bisogno di penitenza non trascinasse fuori dall'ordine gli spirituali più accesi, disciogliendo quella splendida comunità di cui era a capo, in una costellazione di bande d'eretici. Doveva piacere al Papa, all'Impero, ai frati di povera vita, a San Francesco che certo lo sorvegliava dal cielo, al popolo cristiano che lo sorvegliava da terra. Quando Giovanni aveva condannato tutti gli spirituali come eretici, Michele non aveva esitato a consegnargli 5 tra i più riottosi frati di Provenza, lasciando che il pontefice li mandasse a rogo. Ancora 2 anni prima del giorno in cui lo vidi, aveva ingiunto ai suoi frati, nel capitolo generale di Lione, di parlare della persona del Papa solo con moderazione e rispetto. E questo pochi mesi dopo che il Papa aveva parlato dei minoriti, protestando contro i loro latrati, i loro errori e le loro insanie. Ma ora era a tavola, amicissimo, con persone che del Papa parlavano con rispetto meno che nullo. Del resto ho già detto, Giovanni lo voleva ad Avignone, egli voleva e non voleva andare. Non credo che Michele avesse mai incontrato di persona Giovanni, almeno da che era Papa. In ogni caso non lo vedeva da tempo e i suoi amici si affrettavano a dipingergli a tinte molto scure la figura di quel simoniaco. «Una cosa dovrai imparare», gli diceva Guglielmo, «a non fidarti dei suoi giuramenti, che gli mantiene sempre alla lettera, violandoli nella sostanza». «Tutti sanno», diceva Ubertino, «cosa accadde ai tempi della sua elezione, e tu non conosci ancora le sue follie in campo teologico. Egli vuole legare davvero tutto di sua mano in cielo e in terra. In terra abbiamo visto cosa fa, quanto al cielo, ebbene, egli non ha ancora espresso le idee che ti dico, non pubblicamente almeno. Ma io so di certo che ne ha mormorato coi suoi fidi. Egli sta elaborando alcune proposizioni folli, se non perverse, che cambierebbero la sostanza stessa della dottrina e toglierebbero ogni forza alla nostra predicazione». «Quali?» domandarono molti. «Chiedete a Berengario. Egli lo sa, me ne aveva parlato lui». Ubertino si era rivolto a Berengario Talloni, che era stato negli anni scorsi uno dei più decisi avversari del pontefice nella sua stessa corte. Venuto da Avignone, si era da 2 giorni ricongiunto col gruppo degli altri francescani e con loro era arrivato all'abbazia. «È una storia scura e quasi incredibile», disse Berengario. «Pare dunque che Giovanni abbia in mente di sostenere che i giusti non godranno della visione beatifica fino a dopo il giorno del giudizio. È da tempo che sta riflettendo sul versetto 9 del capitolo 6 dell'Apocalisse, là dove si parla dell'apertura del quinto sigillo, dove appaiono sotto l'altare quelli che sono stati uccisi per testimoniare la parola di Dio e chiedono giustizia. A ciascuno viene data una veste bianca dicendo loro di pazientare ancora un poco, segno, ne argomenta Giovanni, che essi non potranno vedere Dio nella sua essenza se non al compimento del giudizio finale». «Ma chi ha detto queste cose?» domandò Michele esterrefatto. «Finora pochi intimi, ma la voce si è diffusa. Dicono che stia preparando un intervento aperto, non subito, forse tra qualche anno. Sta consultandosi coi suoi teologi». «Siamo nelle mani di un pazzo», disse Ubertino. «Ma non capisco perché voglia sostenere queste cose». «Va in fumo tutta la dottrina delle indulgenze», lamentò Girolamo, un frate che fino ad allora era stato in silenzio. «E neppure lui potrà più venderne, perché un prete che ha peccato di bestialità deve pagare tante lire d'oro per evitare un castigo tanto remoto». «Non tanto remoto», disse con forza Ubertino. «I tempi sono vicini». «Ma perché fa così?» si chiedeva Michele da Cesena. «Non credo che ci sia una ragione», disse Guglielmo. «È un atto d'orgoglio, vuole essere veramente colui che decide per il cielo e per la terra. Sapevo di queste mormorazioni, me lo aveva scritto Guglielmo di Occam. Vedremo alla fine se la spunterà il Papa o la spunteranno i teologi. La voce tutta della Chiesa, i desideri stessi del popolo di Dio, i vescovi. Egli potrà piegare anche i teologi, disse triste Michele. Non è detto, rispose Guglielmo. Viviamo in tempi in cui i sapienti di cose divine non hanno timore a proclamare che il Papa sia un eretico. I sapienti di cose divine sono a loro modo la voce del popolo cristiano contro cui neppure il Papa potrà ormai andare, anche tu dovrai concordare con quei teologi. I minoriti si accordarono sul contegno da tenere il giorno dopo. Valutarono uno per uno i loro avversari, commentarono con preoccupazione la notizia, data da Guglielmo, dell'arrivo di Bernardo Gui e ancora più il fatto che a presiedere la legazione avignonese sarebbe stato un martello degli eretici come il cardinal Bertrando del Poggetto. Due inquisitori erano troppi, segno che si voleva usare contro i minoriti l'argomento dell'eresia. «Tanto peggio!» disse Guglielmo. «Noi tratteremo loro da eretici!» «No, no!» disse Michele. «Procediamo con cautela, non dobbiamo compromettere alcun accordo possibile!» «Per quanto riesco a pensare», disse Guglielmo, «pur non avendo lavorato per la realizzazione di questo incontro, e tu lo sai, Michele, io non credo che gli avignonesi vengano qui per trarne alcun risultato positivo. Giovanni ti vuole ad Avignone solo e non garantito, ma l'incontro sarà servito almeno a fartelo capire. Sarebbe stato peggio se tu fossi andato prima di avere questa esperienza. Così tu ti sei dato da fare per molti mesi per realizzare una cosa che credi inutile», disse amaramente Michele. «Mi era stato richiesto e da te e dall'imperatore», disse Guglielmo. «E infine, non è mai inutile conoscere meglio i propri nemici». A quel punto vennero ad avvertirci che stava entrando entro le mura la seconda delegazione. I minoriti si alzarono e andarono incontro agli uomini del Papa. Moni Ovadia ha letto Il nome della rosa di Umberto Eco. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Chiara D'Ambros. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.